Nuovamente in diretta, puntuali 8 e 32 minuti per questo giovedì, un giovedì intenso, il giovedì è contraddistinto dalla caratteristica della forza, per cui seppur prima puntata già partiamo con un percorso in mostra quanto mai eterogeneo. Per quanto riguarda questa parte della rubrica si parlerà di fotografia, lo faremo con una rassegna giunta alla 32esima edizione di imminente apertura, fra l'altro. Io ringrazio tantissimo il direttore artistico che già abbiamo conosciuto, Alex Maioli, del SeaFest, il festival di fotografia. Intanto allora do il buongiorno a Alex Maioli, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie. Grazie a lei per la disponibilità. In mostra di solito viene registrata la conversazione. A lei ho chiesto questa levataccia, però insomma la disponibilità e soprattutto la passione, quello che è la diffusione di un percorso così importante, ci porta ad essere testimoni oculari in questo caso, anche se in radio, di quello che è la parola d'ordine o il filo conduttore di questa 32esima edizione. Testimone oculare, ci può dire qualcosa di più a proposito anche dalla scelta di questa affermazione, da questa definizione, Alex? Ma dunque, quest'anno ritorniamo sugli stessi passi dell'anno scorso, cioè ho deciso di portare le mostre del festival, di questo longevo festival italiano, all'interno delle scuole di Savignano, e invece che, diciamo, nei tradizionali spazi dove si è sempre svolto il festival, e perché volevo reinvestire questo budget che viene dato per fare il festival sulla educazione dei ragazzi. In più quest'anno, oltre a portare le fotografie nelle aule dei ragazzi, ho provato a fare un progetto che da tanto tempo avevo in mente, e cioè di offrire il lavoro e la professionalità e l'autorità di 4 fotografi a 5 detenuti della casa circondariale, perché questi detenuti possono utilizzare questi 4 fotografi per vedere qualcosa o capire qualcosa del mondo esterno, più che altro vedere qualcosa del mondo esterno. Quindi ci sono 5 desideri, è un esperimento chiaramente, quindi io la domanda era quale desiderio chiederà comunque una persona che per un periodo della propria vita dentro una casa penitenziaria, e questo sarà un blocco molto importante della mostra, che poi questo blocco andrà all'interno della casa circondariale subito dopo il festival. Sì. E questa è una delle cose che abbiamo fatto in più quest'anno. Certo, ma ho letto anche da comunicato stampa che ci sono tanti appuntamenti, chiamiamoli collaterali, in relazione. Ricordo che siamo a Savignano sul Rubicone, il festival così nel suo nucleo dall'8 al 10 settembre, ma le mostre saranno visitabili anche il 16 e il 17, cioè il weekend successivo, e anche quello dopo ancora, il 23 e il 24. Collaborazioni, Alex? Collaborazioni è stato chiesto a come? Tante collaborazioni. Sì, tante, anche perché ci sono una serie di mostre collaterali che non sono poi collaterali, fanno parte del programma, che sono le mostre di chi ha vinto i premi Marco Pesaresi l'anno scorso, Premio Colonna, ci sono le serate, sono 2 serate con, ho chiesto a Enrico Malatesta di organizzare dei circuiti sonori venerdì sera e sabato sera. Queste sono più o meno, insomma, sono le cose che possono intrattenere il pubblico, informarlo, farlo sognare, insomma. Certo, qual è il ruolo adesso? Appunto, tante sono le trasformazioni, qual è l'interpretazione, qual è il ruolo che si vuole dare con SeaFest all'immagine, alla fotografia, Alex? Il ruolo è mettersi in gioco, cioè nel senso, non bisogna mai venire, bisogna portare, fare dei tanti esperimenti, l'ho detto ieri anche ai professori delle scuole, cioè bisogna inventare, bisogna giocare, bisogna stupirsi, e quindi la fotografia, che comunque è uno strumento che ormai tutti nel mondo utilizziamo quotidianamente, anche se non si è necessariamente alfabetizzati, bisogna assolutamente impegnarsi a, in maniera libera, a utilizzare questo strumento, questa cosa delle immagini. Questo si fa si festi, insomma, non voglio mai che una persona arrivi, non ho mai pensato di fare un festival dove comunque uno arrivi e c'è dall'alto verso il basso una guarda questo lavoro, guarda, certo, guarda che buona fotografia, eccetera. In realtà ci sono tanti, quando si passa nei corridoi di queste scuole, ci sono tanti punti interrogativi, molto più di punti esclamativi, sono molto più punti interrogativi, e quindi quello è, poi qualcuno magari viene destabilizzato oppure inizia a pensare oppure smette di pensare, chi lo so. C'è tante cose che possono succedere. Mi piace questa sensazione qua. Con la parola giusta, probabilmente è sensazione che viene data piuttosto che l'aspetto della tecnica. Ho intuito bene? Sì, assolutamente. Beh, prendiamo esempio una delle mostre a quale io ho tenuto molto quest'anno di portare qua, che sono anche riuscito, stranamente, perché è una mostra che non viene mai, è stata mai vista in Italia, è quella di Evidence, un lavoro del 1977 di due fotografi, dove in realtà le immagini non sono le loro, hanno pescato per 4 anni negli archivi statunitensi, archivi di fabbriche, di industrie, archivi di polizia, archivi di tribunali, e hanno collezionato 68 immagini senza le didascalie. Quindi abbiamo immagini dove... Ah, bello! È meraviglioso, perché comunque è stato veramente un cambiamento. In fotografia, nella storia della fotografia, è stato veramente un momento storico, dove le fotografie sono state scattate da, non so, da persone che sapevano usare la macchina fotografica, ma magari erano operai o erano scienziati, e quindi l'autorialità in realtà, tra virgolette, esce nel senso pure della parola, di quello dell'essere l'artista, che le fotografie vengono scattate per esigenze, non so, magari fotografare un prodotto, fotografare un evidence, appunto una prova di imputazione, però tutto togliendo la didascalia, tutte insieme editate, come solo loro potevano farlo, Larry Saltan e Mendel, diventa arte, diventa praticamente, certo, si liberano queste immagini, possono diventare qualsiasi cosa che noi vogliamo vedere o vogliamo pensare. Quindi questo è stato fantastico, questo è negli anni 70, stiamo parlando di immagini. Quindi mi piace tanto l'idea di uno entra nelle classi, nelle corridoi delle elementari, e vede queste fotografie, tra virgolette, astratte. Sì, una sensazione di libertà, indubbiamente. Assolutamente. Puoi restare, Alex, per qualche minuto, mettiamo un po' di musica, poi torniamo, certo, appunto, per, certo, approfondire questo concetto di particolari sedi espositive. Intanto grazie, certo, ricordo che l'apertura sarà l'8 settembre per il Sea Fest, testimone oculare a Savignano sul Rubicone. A tra poco. voluto portare la piacevole apparente irregolarità dei Fila Brasilia tra jazz, acid jazz e un'elettronica misurata all'interno delle loro composizioni, così con scatti come del resto gli scatti saranno protagonisti al C-Fest, già 32esima edizione. Savignano sul Rubicone, diretta telefonica col direttore artistico del C-Fest, Alex Maioli. Ci sei, Alex? Sì. Ci sono. Grande, ok. Allora, 32esima edizione, siamo grandicelli, Alex. Io non ne ho fatte. No, immagino, però come festival, accidenti, voglio dire, già. È longevo. È un percorso molto longevo, benissimo. E aggiungo, nonostante la tua recente, insomma, chiamiamola carica, tra l'altro meritatissima per quanto riguarda questa direzione artistica, in 32 anni com'è cambiato? Certo, non sto parlando di tecniche, ma dico proprio di percorsi, così a tua sensazione. Cambiato cosa? Il festival, sì. Io mi ricordo un'edizione di tanti anni fa, dove avevo vinto il Trionfo Saresi, non so come è cambiato, ho una sensazione, c'è sempre un po', rimane un po' quell'aspetto della città piccola, ci sono le stesse facce che comunque continuano. Io ho cercato, arrivando qua, di provare a allargare l'occhio. Appunto, prima ai ragazzi delle scuole, quindi per me era importante loro. Faccio un esempio: le fotografie di Evident nel corridoio delle scuole sono molto basse, cioè un adulto dovrà inchinarsi per vedere le fotografie, perché comunque ci tengo che i bambini vedano le fotografie. E quindi ha spostato l'occhio a quel pubblico tradizionale che andava a C-Fest da sempre, che comunque importantissimo ed è anche abituato a dei ritmi, a delle tradizioni, chiamiamo, eccetera. Ho spostato proprio l'attenzione ai ragazzi delle scuole, insomma, questo è quello che è successo in questi due anni. E quindi non so, volevo proprio cambiare, insomma, volevo certo. Vedere altre facce, altra gente, insomma, ampliare. Sì, e hai preso già dalle sedie espositive una fetta di pubblico che è assolutamente molto così affascinante, anche in proiezione futura, cioè i giovanissimi nelle scuole. E a proposito, allora, queste sedie espositive, ce ne puoi parlare? Le espositive sono diverse, però prevalentemente sono tre, per me quelle che io curo e mi interesso sono tre, sono la scuola elementare e la scuola media, scuola delle due, si chiama Giulio Cesare, scusate, poi c'è questo che si chiama Consorzio di Bonifica, che è una struttura d'angolo, una via principale, e dove lì c'è tutto il lavoro del fatto con la casa circondariale. Queste sono le tre strutture più importanti. Certo. E ho visto anche una grande intersezione con la musica, perché ci sono appuntamenti anche in musica. Ho letto male una mia... No, ho letto bene. Questi sono gli appuntamenti serali, che però si svolgono sempre nel cortile della scuola elementare. Diciamo che anche quello, c'è sempre stata la piazza, come luogo di creazione storicamente. La piazza esiste ancora, ci sarà come sempre, perché poi è una richiesta del sindaco personale, però io ho voluto portare l'Agora, dove comunque ci sono le premiazioni, dove si parla, ci sono le discussioni, eccetera, l'ho voluto portare nel cortile della scuola. Per me era importante comunque decentralizzare tutto e portare dentro, avere questa sensazione di che si ritorna a scuola. Volevo questo. E poi iniziano a breve, quindi sei stato perfetto, guarda. E citavo un ospite in musica da appassionato di jazz, anche qui correggimi se ho travisato, ci sarà Dan Kinstelman, grande musicista fra l'altro, quindi è anche a commento visivo, è qualcosa di assolutamente, per le micro sensazioni, attinente a tutto ciò. C-Fest, testimone oculare, imminente la partenza 8, 9, 10 settembre, ma le mostre saranno visibili anche nei weekend successivi 16, 17, 23, 24. Alex, io ti ringrazio tantissimo per questa conversazione e ti auguro un buon festival. Grazie. Grazie mille. Buona grazie giornata. Mille a voi. Grazie a voi. Ciao, buona mamma. Ciao. Ciao. La Brasilia, questo è uno dei primi dischi che ha visto questa stranissima formazione con le immagini, le emozioni dal loro disco Look Be Aware To Tonight. Ve lo lascio tutto questo brano che a me piace in particolar modo, con questa lunga suite che ha un'alternanza ritmica e una visione di acid jazz colto, quanto mai così incisivo. Thank you. invece Quantic lo teniamo come sigla di conclusione per annunciare che domani andremo in scena col triplo appuntamento del nostro rotocalco che alza al sipario e chiude la settimana per il Breakfast Club. Terminata per oggi è veramente tutto per quanto riguarda la rubrica In Scena, prima puntata 2023-2024. Metafisica a Tresigallo, fotografia con il C-Fest a Savignano sul Rubicone. Domani danza a Mutinamenti a Ravenna, ma attenzione, presentazione ufficiale del programma con Walter Malosti, Erte Emilia Romagna Teatri. Domani sarà incentrata la nostra rubrica In Scena per chiudere la settimana con questo appuntamento imperdibile per la nostra città e non solo, e oltre. Quindi vi aspetto, puntuali alle ore 7, vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro una buonissima giornata e un buon ascolto a breve Liberi Dentro e a seguire la rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali e il vostro William Piana che si congeda a voi con un buon giovedì, un grandissimo abbraccio e una buona giornata. Ciao a tutti, mi raccomando, domani ore 7, Breakfast Club, ciao!